There were times I remember had to fight just to hold my head up. Those times when even my friends tried to make a fool of me. There were things in my heart looked at that they just couldn't see. Some said I was hopeless. My tangled in the night. Strong hearts just keep going. That is why I'm still standing here today. C'è rock come sempre, ma caldissima, bellissima, di Joe Cocker in chiusura di questo Trisdassi. Saluto Fefo, che è contento di averlo ascoltato. Minty, un grazie e un abbraccione anche a te. Ancora Colin da Milano, assolutamente sì, e la risposta è affermativissima. Ci vedremo quella sera, sarò qua tutte le 24 ore, quindi avremo modo di conoscerci personalmente, come no. E ancora un saluto a Franci da Senago. Sai, su quello non so risponderti, non sono io che gestisco le cose lì all'interno, non lo so, non vorrei dirti una cosa errata sotto ogni aspetto. Tra poco ritorneremo, apriremo gli ultimi 60 minuti a nostra disposizione con la musica dei CCR, Creedence Clearwater Revival. Rock FM Spot. Live presenta Rock Your Summer 2008, Gods of Metal. 27, 28, 29 giugno, Arena Parco Nord Bologna con Iron Maiden, Slayer e Judas Priest. Evolution Festival. 11 e 12 luglio, Idroscalo Milano. Metallica. 22 luglio, Arena Parco Nord Bologna. Rock of Ages. 13 settembre, Balashart di Milano con Twisted Sister e The Extreme. Infoline 055-5520-575. Tripla W, liveinitaly.com. In collaborazione con Rock FM. Rock FM presenta Cinema. Quotidiano di informazione cinematografica. 01 Distribution presenta il 30 maggio. Hai un appuntamento con il film più atteso dell'anno. Abbiamo deciso di sposarci. Che dici, un diamante? Non regalarmi un diamante, solo un armadio gigantesco. Carrie, Samantha, Charlotte, Miranda. Sex in the City. Dal 30 maggio al cinema. Cinema. Quest'anno. Spartani, alla battaglia! Si salvi chi può. Hai radunato il mio esercito? Sì, sì. Dai ragazzi che hanno visto 300. Sto mettendo su un esercito di 300 uomini per fare guerra alla Persia. Una nuova grande commedia epica. Ne volevo 300, questi sono tre impolli. 300, chi l'ha duro la vince. Al cinema. Cinema. Una mitica città. La leggenda narra che un teschio di cristallo fu rubato da una città dell'Amazzonia. Un antico segreto. Chiunque lo restituirà avrà il controllo del suo potere. Lei lo troverà. Ma dai. Harrison Ford. Cantatelo! Un film di Steven Spielberg. Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo. Dal 23 maggio al cinema. Cinema. Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione. Top Ten Group. To the heart. Grandissimo trio, grandissima band Rush con Closer to the Heart, brano che avete ascoltato su Rock FM alle 11:08 minuti primi. Altro grande gruppo, soprattutto con questo primissimo disco, gruppo che ci permette di aprire questo Tris, Pearl Jam, Lenny Kravitz, Emerson, Lake and Palmer. Is that the question?